2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. Di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 31 agosto e 1 settembre 2013. Benvenuti o bentornati a 2024. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete comunicare con noi, è 2024@radio24.it. Ci trovate anche su Facebook e anche su Twitter. Nei prossimi giorni sono da tenere ben aperti gli occhi e da puntare gli occhi sulla Commissione europea, che nella settimana che inizia il 9 settembre presenterà la proposta di un regolamento per lanciare un mercato unico europeo delle telecomunicazioni. Naturalmente sono tutte cose che ci riguardano, perché poi queste decisioni si trasformano in condizioni con le quali noi utilizziamo gli smartphone, i telefoni cellulari, la nostra connessione ad internet. Allora, la Commissione, in particolare la commissaria europea all'agenda digitale Nelly Kroes, ribadisce l'intenzione di arrivare all'eliminazione del roaming internazionale, ma c'è chi dice che questa potrebbe essere la merce di scambio per ammorbidire le regole che riguardano le reti fisse. La commissaria dice: dobbiamo avere prezzi di accesso alla rete in rame stabili, quindi la vecchia rete dei vecchi doppini telefonici che porta la DSL nelle nostre case, regole chiare sulla fibra ottica per incoraggiare gli investimenti nella banda larga. Però il problema è questo: gli stati non hanno soldi per fare reti in fibra ottica, o meglio, forse ce li avrebbero, ma le priorità per il momento non sono quelle di investire in questo settore, anche perché poi c'è il grosso problema dell'aiuto di Stato verso le aziende, anche se il problema potrebbe essere risolto e aggirato. Comunque ci sono pochi soldi per fare questo tipo di investimenti, investimenti che sono necessari alla nostra economia. Si è detto tante volte, ci sono tantissimi dati e tantissime evidenze che investire in connessioni in banda larga per portare la rete a banda larga nelle aziende in primis, ma anche a tutti i cittadini, migliorerebbe la competitività del paese, renderebbe più efficiente oltre che le aziende anche la pubblica amministrazione, eccetera eccetera. Quindi tutto ciò si trasformerebbe anche in un vantaggio economico. Quindi bisogna fare queste reti, ma gli stati non hanno soldi o non vogliono farle, è complicato farle. Allora, una cosa che si potrebbe fare è rendere meno stringenti le regole che guidano il settore delle reti fisse, che essendo in monopolio è giusto che siano fortemente regolate. Il rischio è però che gli operatori facciano un po' quello che vogliono, quindi con queste regole molto più morbide, a scapito soprattutto della neutralità della rete. E grazie alla neutralità della rete che si è creata internet e sono nati tutti i servizi che oggi conosciamo. Quindi se perdiamo la neutralità della rete, diciamo che finisce un po' tutto il gioco. Quindi occhi puntati, ma sicuramente i nostri esperti ce li hanno già da tempo, orecchie puntate, occhi puntati sulla Commissione europea. In questa puntata parleremo di automobili con un servizio che si chiama eCall, dove la E, cioè la E all'inglese, sta per emergency, emergenza, e call è chiamata, quindi chiamata d'emergenza. Parleremo di questo servizio tra poco. Adesso abbiamo alcune notizie della settimana. Digital News. The Document Foundation ha annunciato la nuova versione di LibreOffice, la 4.1.1 per Windows, Mac e Linux. LibreOffice, lo ricordiamo, è una suite da ufficio gratuita e open source. Pochi giorni fa, tra l'altro, la regione autonoma di Valencia, in Spagna, ha migrato a LibreOffice, ha annunciato di aver migrato a LibreOffice 120.000 PC, con un risparmio di 1,5 milioni di euro all'anno per i prossimi 5 anni sull'acquisto di licenze software proprietarie. Il team di sviluppo di Android perde un'altra delle colonne portanti. Ugo Barra, finora capo dello sviluppo dei dispositivi Android in Google, andrà in Cina a lavorare per Xiaomi, uno dei maggiori produttori cinesi di smartphone che si prepara a sbarcare a livello internazionale. Barra diventerà vicepresidente di Xiaomi Global. Notizia interessante anche perché ci fa capire quanto stiano investendo i produttori di smartphone cinesi per lo sviluppo internazionale dei loro prodotti. Facebook ha raggiunto in Italia 24 milioni di utenti attivi mensili, 17 milioni quelli attivi ogni giorno. Questo significa che poco più del 73% degli utenti italiani accede al social network ogni giorno. Di questi 17 milioni di abitudinari, 10 accedono da smartphone e tablet. Un'altra notizia che riguarda Facebook: il social network ha pubblicato il Global Government Request Report, cioè le richieste dei governi che vogliono informazioni sugli utenti. Allora, dagli Stati Uniti sono arrivate nei primi 6 mesi dell'anno 12.000 richieste, seguono poi l'India, la Gran Bretagna e la Germania. Al quinto posto c'è l'Italia. Allora, nel nostro paese le forze di polizia e la magistratura hanno inoltrato a Facebook 1.705 richieste di dati relativi a 2.306 account del social network. Di solito dietro a un account c'è una persona, ma non è sempre detto. Però di queste richieste ne è stata soddisfatta poco più della metà, il 53%. Allora, sono dati che in effetti dicono poco, perché bisognerebbe sapere il motivo delle richieste e anche il motivo del rifiuto di queste richieste. Poi va detto che fin qui si tratta di dati ufficiali, perché ad esempio le richieste dei servizi segreti americani non sono pubblicabili, è vietato. E ricordiamo anche che in base alle informazioni che Snowden, Edward Snowden, ha dato in questi ultimi mesi, la National Security Agency, la NSA, sarebbe in grado di controllare e archiviare i dati di pressoché tutte le persone che sono su Facebook, tutte le persone che sono su internet e a maggior ragione anche su Facebook. Un altro servizio la cui architettura è stata trasformata, c'è chi dice per renderla meglio accessibile ai servizi segreti americani, è Skype, che ha festeggiato il 29 agosto 10 anni. Forse alcuni ricorderanno che siamo stati tra i primi ad intervistare uno sconosciuto anche per noi, Niklas Zennström, che assieme a Janos Fries avevano lanciato la versione sperimentale il 29 agosto 2003 all'Università di Tallinn in Estonia. Skype è poi stato acquistato nel 2005 da eBay per 3,1 miliardi di dollari, per poi passare a Microsoft nel 2011 per 8,5 miliardi di dollari. Beh, sicuramente Zennström e Fries hanno fatto un sacco di soldi, però anche eBay non scherza. Allora, Microsoft ha poi cambiato l'architettura decentralizzata famosa di Skype, riducendo i nodi, i super nodi di rete, che sono così molto più controllabili. Una ricerca di Forrester, che ha intervistato 1.600 sviluppatori in Europa e Stati Uniti, dice che il 35% di chi sviluppa applicazioni indica iPhone come priorità. Il 27%, ma stanno crescendo, sceglie Android e solo il 10% Windows Phone. Ultima notizia: si è parlato spesso di Groove Shark, uno dei tanti servizi di streaming musicali come Spotify o Deezer, piuttosto famoso, Groove Shark. È sempre stato sul filo del rasoio per le accuse di illegalità, ma questa settimana ha annunciato un importante accordo con EMI. We've announced that we'll introduce autonomous drive vehicle by 2020, and that we said that within 2020, il 2020. Quella che sentite è la voce del CEO, quindi l'amministratore delegato di Nissan, il secondo produttore di auto in Giappone. Si chiama Carlos Ghosn, non è un giapponese. Ha annunciato questa settimana che dal 2020 Nissan metterà in vendita veicoli automatici marchiati proprio con il marchio giapponese Nissan. Sapete che molte case automobilistiche stanno sperimentando e investendo molte risorse per realizzare veicoli automatici. Vedremo poi se il 2020 indicato da Carlos Ghosn sarà rispettato, anche perché non basta creare veicoli automatici, bisogna anche cambiare le leggi e quindi rendere possibile che poi sulle strade questi veicoli automatici possano transitare. Sarà piuttosto complicato. Negli Stati Uniti e in altri stati del mondo si sta discutendo, si sta parlando, alcune norme sono già state messe a punto, ma la cosa è tutt'altro che vicina. Stiamo parlando di 6-7 anni, meno di 7 anni, poco più di 6 anni, quindi molto vicino. In ogni caso, gli investimenti sono molto ingenti. Sapete che molte case, direi quasi tutte le case automobilistiche stanno investendo molto denaro in questo settore. Non solo le case automobilistiche, si è parlato molto anche dei veicoli automatici di Google che stanno transitando e facendo sperimentazioni sulle strade della California, ma ricordo, e devo dire che quando leggo articoli relativi a questo tema italiani non vedo spesso citato il nostro caso, perché ricordo che l'unico veicolo che è riuscito a percorrere un tratto cittadino in condizioni di traffico normale, quindi con altre automobili, con i pedoni, con le biciclette, facendo gli stop eccetera eccetera, è quello del Vislab di Parma. Il Vislab è un laboratorio ma anche uno spin-off dell'Università di Parma. Il professor Broggi, che direi da 15 anni si occupa di questo settore partendo dalla visione tramite videocamera, quindi la visione elettronica, ha creato con il suo team un'automobile completamente automatica. Su internet ci sono dei bellissimi video che spiegano questa sperimentazione che è stata fatta durante l'estate, ne abbiamo parlato anche a 2024. Sicuramente, e questo lo dicono tutti gli esperti del settore, nei prossimi anni la tecnologia ICT, quindi la tecnologia delle telecomunicazioni, dei computer applicata alle automobili, cambierà questi prodotti molto di più delle innovazioni sui motori o sui materiali. Beh, devo dire che è anche una speranza per le case automobilistiche che ancora oggi propongono prodotti che hanno un'efficienza grosso modo di una stufa, e forse puntando su innovazioni tecnologiche, rubando e prendendo spunto dal settore dei computer, del computing, degli smartphone e delle comunicazioni, forse qualche novità potrà esserci. Sicuramente da quel settore arriveranno molte novità. L'evoluzione principale è verso quella che chiamiamo, ne abbiamo parlato anche 2024, connected car, quindi auto connessa, in grado di ricevere informazioni e di comunicare dati alle altre auto o a vari sistemi. Allora, tra questi sistemi citiamo, ed è bene che cominciamo ad imparare questo nome, l'e-call, e-call, e sta per emergency all'inglese, call sta per chiamata, quindi stiamo parlando di chiamata d'emergenza. È un sistema che sarà obbligatorio su tutte le automobili in Europa a partire dal 2015, è un sistema ideato, proposto dalla Commissione europea, un sistema che fa scattare una chiamata d'emergenza in caso di incidente. C'è una sperimentazione molto interessante che si sta facendo a Varese in questa estate, con alcuni veicoli che sono già equipaggiati con questo sistema, con questa strumentazione. Ne abbiamo parlato con Piero Brambilla, che è il responsabile dei sistemi informativi di Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia. E-call, prima di tutto, è uno standard di comunicazione, ovvero è la definizione di una modalità attraverso la quale un veicolo che subisce un incidente o un veicolo al bordo del quale l'occupante può decidere di fare una chiamata d'emergenza in maniera automatica, è in grado di comunicare con un centro di risposta d'emergenza, che può essere nel nostro caso in Italia qualcosa che siamo abituati a vedere, per esempio come il 118 o il 112 o il 113 o il 115, e trasmette i dati di posizione del veicolo e altri dati caratteristici del veicolo in maniera tale che l'operatore di questo centro di risposta per l'emergenza abbia già una serie di informazioni immediate sul posizionamento ed eventualmente su altre situazioni che il veicolo in cui il veicolo si trova. Questo è e-call. Prima di tutto uno standard, poi questo standard si implementa, si realizza in parti di elettronica, una parte molto piccola sta su ogni veicolo ed è, chiamiamola pure, scatoletta che è in grado di spedire questi dati sulla rete telefonica mobile, che è la rete che normalmente utilizziamo quando utilizziamo il cellulare, e dall'altra parte invece presso i call center di risposta vede una serie di strumentazioni in grado di decodificare questi dati che vengono spediti dal veicolo e di instaurare una comunicazione vocale eventualmente con l'occupante volante del veicolo se questo è in grado di comunicare a voce, come se fosse un telefono col viva voce in auto, e dall'altra parte invece c'è questo operatore. Questo sostanzialmente è eCall. Cosa significa? Significa che automaticamente, anche se l'occupante non è in grado di farlo, in caso di incidente una chiamata d'emergenza parte, e questa chiamata d'emergenza, attraverso i dati che veicola, è una chiamata d'emergenza localizzata. L'automobile sa dove si trova, perché attraverso il sistema GPS è in grado di sapere quali sono le coordinate geografiche in cui si trova. Queste coordinate fanno parte di quei dati che vengono trasferiti al call center. Il call center poi li riconcilia cartograficamente, sapendo e trovando quindi la località e il luogo preciso in cui questo è avvenuto. Stiamo parlando di eCall, di una sperimentazione in atto a Varese. Questo è 2024, siete su Radio 24, riprendiamo tra un minuto. 2024. Stiamo parlando di un sistema che sarà obbligatorio su tutte le automobili di nuova produzione a partire dal 2015 in Europa, nell'Unione Europea. Si chiama eCall, è un sistema che fondamentalmente coincide con una piccola scatoletta dove c'è un cellulare, di fatto una SIM che comunica via rete cellulare e che in caso di emergenza, essendo collegata con i sistemi di bordo dell'automobile, e quindi ad esempio con i sensori che fanno scattare l'airbag, bene, in caso di incidente fa scattare una telefonata ad un numero d'emergenza, al numero d'emergenza unico europeo 112. C'è una sperimentazione in atto a Varese e Piero Brambilla, il responsabile dei sistemi informativi di Areu, l'azienda regionale lombarda emergenza urgenza, ci spiega perché proprio a Varese. A Varese perché il call center laico per il numero unico europeo esistente a Varese, e che in questo momento serve 5 province della Lombardia per un totale di circa 3.800.000 abitanti, è tecnologicamente in grado di ricevere questo tipo di chiamate, o meglio, aveva un'infrastruttura di gestione delle chiamate d'emergenza unificata per tutte e quattro i numeri di emergenza che normalmente siamo abituati a fare, ed era quindi possibile realizzare, modificare in maniera sufficientemente veloce e semplice questa tecnologia per ricevere le chiamate eCall, perché uno dei problemi seri che si dovranno affrontare poi nel 2015, quando l'eCall dovrebbe diventare uno standard a livello europeo, sarà di essere in grado nei vari call center di emergenza di avere della strumentazione in grado di ricevere queste chiamate. A Varese questa strumentazione c'è, è funzionante normalmente nel sistema, non è una sperimentazione nel senso di laboratorio, no. Questa strumentazione c'era già tutta la strumentazione del call center. L'aggiunta di una parte per interpretare la parte eCall è stata fatta all'interno di quello che è il sistema normale. Non siamo in laboratorio, ma siamo nella vita reale. Cioè, in questo momento, paradossalmente, se eCall fosse obbligatorio e quindi ci fossero delle auto normali in grado di spedire questo tipo di cosa, Varese lo gestirebbe. Senta, naturalmente si tratta di un servizio che è obbligatorio, sarà su tutte le automobili di nuova produzione a partire dal 2015 ed è gratuito, non bisogna fare un abbonamento. Assolutamente, non è un abbonamento, è come uno attualmente per fare una chiamata d'emergenza sanitaria fa il 118 ed è gratuito a partire dalla telefonata, la stessa cosa succederà qua. L'hardware che è montato a bordo dell'auto sarà presumibilmente incluso nel prezzo dell'auto, non è un opzionale, come queste cose. Il servizio invece che ne deriva invece è gratuito come tutti i servizi d'emergenza. Senta, la chiamata comunque arriva ad un operatore che la deve interpretare, o esistono anche degli automatismi che, ne so, che fanno partire un'ambulanza in automatico? No, degli automatismi no, un filtro da parte dell'operatore è fondamentale, perché come nelle chiamate normali fatte, diciamo, manualmente o fatte comunque direttamente dai cittadini, ci sono tanti errori di chiamata, tanti che chiamano un numero d'emergenza accorgendosi dopo di non averne bisogno e quindi non generando una vera attività di emergenza, lo stesso potrebbe succedere nel caso di questo automatismo, a maggior ragione visto che di automatismo si tratta. L'automatismo può fallire e può far partire chiamate assolutamente non proprie. Cioè io potrei anche tamponare il sistema chiama e magari non ho bisogno di emergenza. Esatto, il sistema chiama, però nessuno si è fatto niente, il tamponamento si risolve in magari pochi euro di vernice. Perché in un litigio ne ho di più. È in litigio. Senta, che tipo di... alcuni vantaggi sono facilmente comprensibili. Però in termini anche numerici, io ho letto che si pensa che si possano velocizzare i servizi di emergenza addirittura del 50%, insomma che tipo di vantaggi ci sono? Allora, queste valutazioni sui tempi di intervento dei servizi di emergenza sono sempre molto discutibili, nel senso che cosa vuol dire accelerare del 50%? Vuol dire semplicemente che non devo aspettare quei 30 secondi di tempo per cui l'occupante dell'auto prende il suo telefonino, lo apre, fa il numero d'emergenza e chiama, perché questi 30 secondi sono stati cancellati dal fatto che è partita immediatamente la chiamata. Allora assolutamente d'accordo, è così. Tutto il resto però rimane come prima, nel senso che forse c'è un vantaggio in cui quando io non posso fare la chiamata perché questo è il vero vantaggio. Se io mi sono schiantato davvero, sto davvero male, non sono in grado di muovermi o comunque non sono in grado anche da un punto di vista dell'aspetto della coscienza di fare delle azioni coerenti, questo viene fatto automaticamente dal mezzo. Questo è il vero vantaggio. A proposito di questa sperimentazione, funziona tutto o c'è qualche cosa che non funziona? Perché chiaramente qui bisogna non solo avere un call center adeguato, ma bisogna anche che gli operatori telefonici abbiano cambiato l'infrastruttura, bisogna mettere a bordo delle automobili questa piccola scatoletta che pur nella sua semplicità magari qualche problema lo può dare. Allora, prima di partire con questa sperimentazione citata prima, che negli ultimi mesi è stata fatta dal vivo con dei normali cittadini, con delle normali auto a cui è stato applicato questo tipo di dispositivo, prima di questo ci sono stati 2 anni di lavoro per fare il setup, per mettere a punto tutto questo, a partire dallo strumento a bordo dell'auto, passando attraverso la rete telefonica mobile che è stata modificata per gestire il nuovo protocollo eCall e per fare l'aggiornamento del sistema a livello del call center. Sicuramente in questi 2 anni abbiamo patito un po' di problemi, ma i problemi sono stati risolti ed effettivamente le prove che si stanno facendo adesso dal vivo danno un esito praticamente sicuro al 100%, cioè non ci sono problemi reali. Ricordiamo che queste persone non è che fanno degli incidenti per finta, no. Simulano la chiamata d'emergenza. Esatto. Usano un bottone per simulare il fatto che ci sia stato l'incidente. Certo, nel caso vero poi diciamo questa scatola comunque è collegata con i sistemi di bordo dell'auto. Sì, sì, anche adesso. Oltretutto in questa sperimentazione stiamo andando avanti su 2 strade. La prima, che è quella normata dalla Commissione Europea, che è l'eCall, sta andando verso il call center laico NUE di Varese. Una seconda strada invece, che può partire dallo stesso tipo di strumento che c'è a bordo, va verso un altro call center per chiamate cosiddette B-call, breakdown call, ovvero ho un guasto, non un incidente, ho un guasto e voglio chiamare qualcuno per questo guasto. Questo ovviamente non è più un servizio gratuito, è un servizio che potrebbe avere degli oneri per chi si iscrive a questo tipo di servizio, con una scatoletta che potrebbe essere la stessa, ma ci sono ancora discussioni a livello normativo che possa essere la stessa o debba essere fisicamente separata. Usando però una modalità tecnologica analoga, manda una chiamata presso un call center dedicato a questo tipo di cose in Italia. Essendo che nel progetto ERO citato prima uno dei partner è ACI che sta gestendo questo tipo di sperimentazione. Certo, abbiamo detto che sarà obbligatorio equipaggiare tutte le auto a partire dal 2015, auto nuove, ma le auto vecchie possono essere in qualche modo trasformate? Ci si può aggiungere questa scatoletta? per quel che ne sappiamo, sì, nel senso che esiste da parte di alcuni produttori di elettronica per auto l'idea di mettere sul mercato delle scatolette di questo tipo in retrofit, ovvero che è possibile montare su automezzi già esistenti, come è successo a Varese per la sperimentazione. Sì. Le faccio dire una parola sul 112, perché naturalmente questo che è il numero unico di emergenze europeo è un tassello fondamentale in questo sistema e-call, cioè la chiamata automatica dall'automobile che fa un incidente va a finire al 112, giusto? Esatto. Una delle caratteristiche dello standard e-call è proprio quello che dice che questa scatoletta, questo strumento di bordo, fa una chiamata di tipo telefonico, anche se da telefonia mobile, come se fosse appunto, avete detto, un cellulare, verso il numero 112. Non è previsto che ci sia un numero diverso, ma il numero deve essere 112. 112 è il numero unico d'emergenza definito a livello europeo. Ogni Stato membro europeo deve essere in grado di gestire chiamate provenienti da strumenti telefonici che fanno il 112, e quindi a Varese il call center che c'è è in grado di gestire chiamate verso il 112, giusto appunto perché a Varese il call center sta gestendo le chiamate che vanno verso i quattro numeri di emergenza, appunto 112, poi 113, 115 e 118, che sono i nostri quattro numeri italiani d'emergenza, ragion per cui è in grado di prendere tutte queste chiamate dell'e-call che vanno, ripeto per l'ennesima volta, proprio verso il 112. E sono chiamate telefoniche, quindi il mezzo di trasporto sia della voce sia dei dati è la chiamata vocale. I dati vengono codificati all'interno della chiamata vocale, ma quello che viene utilizzato è puramente il telefono. Non stiamo parlando di trasmissione dati su internet, non stiamo parlando di niente di questo tipo, perché lo standard e-call per ora prevede questa modalità di trasmissione. Naturalmente il 112 è il numero unico europeo ed è ovvio che lo standard sia basato su un unico numero, perché se io con l'automobile vado in Francia automaticamente anche lì deve funzionare, insomma. Esatto. E Varese è il primo in Italia ad essere equipaggiato con questo numero unico che raccoglie anche tutte le chiamate dagli altri numeri. Sì, è il primo e l'unico al momento, c'è in corso di completamento quello di Milano che per il momento raccoglie le chiamate del 118 e del 115. Sicuramente molto interessante, torneremo a parlare anche del numero europeo di emergenza 112, il concetto però è molto semplice, a regime in un'area definita a livello regionale ci sarà un unico call center che gestirà le chiamate d'emergenza per ambulanze, vigili del fuoco, forze dell'ordine eccetera. Si potrà chiamare il 112, che quindi è valido in tutta Europa, oppure si potranno continuare ad usare anche il 118, 115, 113, ma tutte le chiamate arriveranno però allo stesso call center. Questo è 2024, abbiamo concluso questa puntata, ci risentiamo la prossima settimana sempre su Radio 24, oppure vi aspettiamo anche in podcast. Io sono Enrico Paglierini e ci potete raggiungere scrivendo a 2024@radio24.it. 2024.